Thank you. Siamo ritornati in diretta dopo questo vero e proprio bagno dentro la dance legata all'atmosfera e al contenitore, al mondo dubstep. Abbiamo ascoltato due tracce che denotavano moltissimo la matrice anche outrechiana, dunque chiari riferimenti alle sonorità, alle ritmiche e anche alla glacialità inquietante degli Otecre dentro i Digital Mystics, con queste battute piuttosto marcate e anche riverberi ed effetti utilizzati, creando un suono appunto bianco e più glaciale. E poi abbiamo fatto un salto un po' nel vuoto, ma l'obiettivo era quello di creare anche uno stacco, una separazione fra due atmosfere, tra sonorità anche contrastanti per certi versi, anche se rimangono sempre dentro il mondo dubstep, con un suono invece più caldo, più legato squisitamente al suono profondo, ai bassi profondi del dub, e anche con un'apertura soprattutto nella parte iniziale, all'incipit del brano, quasi con riferimenti addirittura con suoni di synth molto vicine alla musica cosmica e dunque alla cosmice music, a un certo ambient piuttosto caldo. E questi erano proprio collegati e mixati ai Digital Mystics, i Pangaea, dall'album UNI uscito nel 2008. Abbiamo ascoltato due tracce in un dub, sicuramente una dance anche abbastanza diretta, però anche molto avvolgente e calda, con una dimensione anche di sperimentazione dentro la stessa dance, sia per i Pangaea ma soprattutto nei Digital Mystics, dove i riferimenti anche a musiche molto elaborate, complesse, sonorità urticanti, abbastanza antagoniste rispetto al suono, all'abitudine del suono degli ascoltatori e alla lettura anche sonora e compositiva dei critici mainstream. E i Pangaea, in realtà, mi confondo sempre perché mi viene da dire Pangea, ma in realtà la pronuncia e la denominazione è differente. You and I nel 2008 appunto costruiscono un suono molto caldo, una dance sicuramente anche fruibile, ma molto profonda e molto avvolgente. In Digital Mystics invece abbiamo ascoltato Return to Space, lo ricordo ancora, uscito nel 2010, e ormai siamo verso la fine di questo percorso dance. Qualcuno forse sarà rimasto un po' stupito rispetto alle classiche trasmissioni, classiche tra virgolette, di sperimentazione di suoni sicuramente molto anche complessi all'ascolto, al primo ascolto, al primo impatto. Ascoltare invece comunque un percorso stasera più legato alla dimensione dance, ma anche dentro la dance noi di 451 abbiamo spesso fatto provocazioni, ma poi oltretutto nemmeno provocazione ma costruzione di percorsi sonori, cercando di raccontare una scena dance che invece dagli anni 80-90 è molto variegata, è molto ricca, è anche legata a forme di sperimentazione che al primo impatto non si riescono a cogliere, ma che in realtà ad ascolti più approfonditi, a un coinvolgimento maggiore nell'ascolto, si riescono invece a percepire e a rendere distinto dal materiale puramente mercificato, consumistico della dance, è legata proprio all'intrattenimento, all'entertainment proprio come concetto di vita e di concezione artistica, permettono appunto di far ascoltare, di far riflettere sul fatto che anche una certa dance può essere sperimentazione, ricerca e in alcuni casi vera e propria avanguardia. Chiudiamo invece dentro la dimensione più squisitamente ambient, che ha attraversato comunque piuttosto in maniera sottesa ma quasi permanente il percorso di stasera, con un autore che è molto amato da 451 Intersezioni, un autore che si muove in un ambient noise con chiari riferimenti anche a rumorismi glaciali e ipnotici, e anche una certa musica industriale, quella più legata appunto a dimensioni di flusso, di drone e di ambient. Parliamo di T-Maker, lo riascoltiamo con l'ultimissimo lavoro, un EP uscito nel 2015, poco tempo fa, Norberg a Pondalifa, e andiamo ad ascoltare proprio una delle due tracce di questo mini disc uscito, molto bello come al solito, ormai siamo abituati in questi ultimi anni, uno degli autori più interessanti della scena degli ultimi 7-8 anni della musica sperimentale, anche lui inglese, dunque rimaniamo molto nella UK, un dubstep stasera molto legato alla dimensione UK, una techno ambient che ha dato l'incipit al percorso di pulsazione di stasera, e per chiudere giustamente con una dimensione più onirica e più da paesaggio sonoro, seppur rumorista, seppur disturbante, di T-Maker. Io con T-Maker dall'album Norberg a Pondalifa vi saluto, vi auguro una buona nottata e vi aspetto per giovedì prossimo sempre dalle 24 all'una e mezza circa su Radio Città Fujiko su queste frequenze. Una buona nottata con T-Maker e spero che il vostro viaggio sonoro sia stato interessante, coinvolgente e stimolante. Buonanotte.